segnato la coscienza, il giudizio buttato addosso, pronti a cambiare, ucciso in ogni sguardo, paralizzato nella corte, fuori ancora un'altra volta, gente pronta a parlare, come potremo? Grazie.